to make the maintenance of that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's a hollow. What the hell is that? Go tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We've marked it. Who's communication? Bravo tango, bravo tango. Buonasera, buonasera, raminghi di sapienza all'ascolto. Adesso riposatevi e abbeveratevi presso quest'oasi di sapienza che è Lezioni Universali di Esistenza. Con noi, come sempre, un sacco di persone, un sacco di... com'è affollata stasera questa regia, com'è affollata. Allora, iniziamo. Alla mia sinistra, come sempre, mio caro maestro Ottani, buonasera. Buonasera, a meno che non siate su un altro pianeta. Lì chiaramente esisteranno altri, non lo so, altri periodi, ok? Quindi buon crepuscolo, buongiorno, buonanotte... o buonanotte della doppia luna. Buonanotte della doppia luna anche a te, maestro. E buonanotte della doppia luna anche all'altro maestro, ancora con noi, Ricky Gianco. Buonasera, maestro. Buonasera a tutti, ciao. Bentornato, maestro. Grazie. E allora un altro bentornato allo spippolatore. È con noi, tornato di nuovo, dottor Bleso. Buonasera, che sorpresa, dottor Bleso. Buonasera, anche per me è un gran piacere essere qui con voi questa sera. Come sta, dottore? Tutto bene. Tira una bell'aria qui su Saturnia. Dottore. Molto bene, siamo felici per lei. Cura? Lei cura? Curo? È un curant... A mio modo, nel senso che faccio sentire peggio le persone e poi con una sorta di catarsi, insomma, dice... Se sto così male, allora prima stavo meglio. Quindi in qualche modo cercano di rivalutare la loro precedente situazione. Bene. Questo è il mio mestiere. Su Saturni evidentemente la chiamano cura, questa cosa. Cura. Un tempo la musica era, insomma, la medicina, così che... Lo era, penso anch'io, sì. Ma un altro buonasera, cazzo, stasera un nuovo ospite è venuto a trovarci. Buonasera. Un culunculu, il camaleonte mante. Buonasera a tutte e a tutti gli spettatori e spettatrici. Buonasera, un culunculu, siamo molto curiosi. Beh, io direi di sapere un sacco di cose di lei, a cominciare dal suo nome, dal suo epiteto, ma tempo al tempo forse. Tempo al tempo, certo. Avremo modo sicuramente. È curioso come nome, quantomeno. Lo è, sono anch'io curioso di sapere e quindi diamoci un attimo di respiro e poi domanderemo. Grazie Camaleonte Mante per essere con noi comunque, grazie. Io ringrazio voi. Va bene, allora potete scriverci domande diretta a wombat.vado.li perché siamo in diretta, però vi ricordiamo che queste sono lezioni e che sarebbe meglio non interromperci. Inoltre tenete conto che le domande che non hanno già qui una risposta sono domande che obiettivamente non vale la pena porsi. Ad però, ogni modo, però fate domande. Sì, se proprio volete. Fatevene. Anche perché le domande sono sempre più importanti delle risposte. Posso fare io una domanda? Grande maestro, comunque, sì. Posso certo. fare una domanda? Allora, un piccolo, diciamo, enigma sia per voi che per i nostri gentili radioascoltatori. Se il maestro fosse un colore, che colore sarebbe? Bellissimo. Non ne avete già parlato di questa? Non ne avete già parlato? No, molto bello. Perché poi è la voce che viene associata al colore. C'è una sola risposta giusta. Una sola risposta giusta? Cioè solo un colore perché è quello, eh? Io esatto. Lo so qual è, in quanto vai, so qual è il colore che mi rappresenta all'interno della cromia dello spettro, però... Io maestro ce l'avrei giochiamo. Una risposta, però aspetta a darci la soluzione. Giochiamo, infatti, giochiamo. Il camaleonte mante vuole dire qualcosa? Beh, il colore più importante di tutti è il verde. Anch'io pensavo al verde, un culo un culo, devo dire la verità. Anch'io pensavo al verde. Anche verde azzurro, non lo so. Sì, anch'io una nota sull'azzurro, ma sì, primo impatto sì. Un verde. Smerigliato, forse. Siamo tutti sul verde, maestro. Attenzione, siete, nel match ci siamo avvicinati. Ci siamo avvicinati. Nello spettro il verde è nel mezzo. Esatto, sì sì. È l'equilibrio tra le due parti. Ed è il colore che fece impazzire certo, lui, Gustavo, lui, proprio lui. Adolfo Rolla, di cui parlammo nella puntata Grondaie. Il colore verde è la quinta musica. Associato esattamente, maestro, alla quinta, alla quinta musica. Certo, certo, il colore certo. È vibrazione. Va bene, iniziamo con vibrazioni, quindi. Frequenze, musiche, abbiamo molto differenze di vibrazioni. Di tutto questo in questa puntata, che bello. E lo sapete da dove iniziamo? Questa volta a sorpresa, non una canzone per iniziare, ma un audio che mi ha mandato il maestro Ricky Gianco proponendomi di condividerlo e io l'ho molto apprezzato. Che facciamo, maestro Ricky Gianco? Diciamo che cos'è o lo mandiamo e poi... Mandiamolo, no? Dovete prestare molta... Volevi... No, lo annuncio, no, dai. Sì, sì, ci vuole una grande introduzione in realtà, ma... Io a te, a te. No, prego. Sia mai. Io la farei brevissima e sciatta. Te ne prego, sto per abbassare la base per una tua introduzione, dopodiché okay. Ascoltiamo. Una storia raccontata poco conosciuta, eppure lì ce l'abbiamo addosso. E sono Kazariani, Ashkenaziti, che sono i nostri amici che occupano Israele. E a voi la storia. Incredibile, io non stavo assolutamente per mandare questo. Ah, non no? Ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, maestro. E allora l'altro, ce ne sono troppi di audio. Era un suono primordiale quello che avevo in mente. Ah, bellissimo, sì. Arriva sì. Prima. Arriva prima, d'altronde. Che sorpresa, eh? No, sorpresa, sembrava... sorpresa. E sia. Allora, godiamoci insieme il suono del Big Bang. C'è stato un click. C'è stato un click. Ci si può lavorare, ma non mi sembrava proprio una hit a me. Non lo era, in effetti, non era proprio una hit. Questa lo è, Sexy Planet, il nostro bellissimo sottofondo. Proprio duopo, maestro Ricky Gianco, sì, il suono sì, del Big Bang. Sì, esplosione, si dice, insomma, da cui tutto è partito. Ma dicevamo, e da lì abbassamento di frequenza. Il suono della radiazione cosmica, quindi sì. Hanno, come dire, decifrato i dati che arrivavano da questa radiazione dalla cosmica, fonte, esatto. E hanno provato a fare una sorta di restituzione dello spettro totale. Esatto, dal picco all'abbassamento di frequenza e poi... Abbassandosi, arriva alla nostra frequenza. E impatto, appunto, noi esseri umani rispetto a questa frequenza, dicevamo prima, siamo in abbassamento, quindi. Qua siamo in terza dimensione, quindi c'è una frequenza bassa. C'è paura, c'è preoccupazione, questa roba abbassa la frequenza. E la frequenza è il suono, che è il fonone. Fonone, esatto. Che è la particella del fotone, ma molto più bassa di frequenza. Si sente? Cioè questo è tutto quanto scientificamente sta dietro quello che noi abbiamo sperimentato empiricamente con l'esperimento della memoria dell'acqua. Anche l'acqua registra la frequenza. Giusto? Sì. E noi siamo fatti d'acqua, no? La percentuale di acqua molecolare all'interno del nostro organismo è quasi il 90%, non è il 70%. Nel fisico, molecolare, cioè noi abbiamo l'acqua nelle cellule, che hanno scoperto poi un altro stato, che è lo stato resinoso. Diciamo così. Sì, è come il miele, ed è H3O2. Spettacolo. Bellissimo. E l'acqua è densa e registra in modo che, insomma, è così sensibile che basta un... Oddio, quante cose. E allora... il pensiero è una frequenza. Quindi noi qui che siamo in terza dimensione, spiritualmente parlando, frequenza energetica che emaniamo, in terza dimensione emaniamo frequenze basse, paura, timore. E queste frequenze, solo nella composizione del pensiero, la nostra acqua le registra. Così come noi abbiamo sperimentato. H3O2. Sì. Indagate. Quello che dico non deve essere preso sul serio, assolutamente. Sono informazioni, poi uno deve sviluppare. Io posso raccontare in realtà niente. Suggerire. Sì, può attraversarvi questa roba senza lasciare traccia, oppure colpirvi e buttarvi giù. Il maestro Tony sicuramente è colpito. Sì, annuisco con colpimento. Allora, noi vorremmo stasera con voi in diretta andare anche a ritirare fuori le bottiglie, perché abbiamo lasciato, dopo lo scorso esperimento disvelato della memoria dell'acqua, ancora un mese e mezzo a giacere le bottiglie nello stesso luogo in cui le avevamo lasciate allora, e dopo lo facciamo, andiamo a vedere come sono. Quindi questo sarebbe il secondo step, la seconda fase dell'esperimento, giusto? Anzi, la terza. No, in realtà, allora, è successo questo, ci sono arrivati molti commenti dagli ascoltatori dopo la scorsa... disvelamento dell'esperimento. Ci sono arrivati tre commenti, ci è arrivata una speciale pistola, è mio dovere adesso sottoporvele tutte queste informazioni e cose che ci sono giunte, di cui sapete o non sapete, avete intuito e appreso per vie traverse, non certo da fingeremo me. Fingeremo di non sapere. Grazie. E allora facciamo questo, mandiamo il riassunto della puntata di due puntate fa, quando avevamo parlato della memoria dell'acqua, tre puntate fa. Dopodiché torniamo con le domande degli ascoltatori, le pistole, e in seguito andiamo anche a vedere che cosa è successo a queste nostre bottiglie sperimentali. Un culu, ascolti con noi? Io ascolto, sono qui presenziando, e anzi volevo anche concordare poco fa con Gianco a proposito di questa delle vibrazioni, però le storie che ho da raccontare sono molte, molto complesse, e quindi in questo momento non mi sembra il caso di esplicitarle in questo modo. Si tratta di informazioni esoteriche che possono illuminare quanto oscurare la visione, e quindi parlando di vibrazioni lascio un po' il campo prima alla voce del maestro e poi interverrò. Io avrei una domanda per un culunculo così a bruciapelo, ma i camaleontomanti ce l'hanno l'apparato uditivo? No, i camaleonti non hanno orecchie. Lo sospettavo. Siete sintonizzati. Beh, e come avete certamente imparato nelle scorse lezioni, il tempo è un concetto senz'altro relativo, quindi siamo davvero noi in ritardo con l'inizio in diretta di questa puntata? Lo siamo? O siamo estremamente in anticipo rispetto ai vostri sogni? Non soli, non soli ancora oggi, vogliamo brillare tantissimo e per questo abbiamo invitato a tornare con noi ancora una volta. Benvenuto, anzi bentornato, caro maestro Ricky Gianco. Buonasera. Bentornato. Bentornato, maestro. Grazie, grazie, grazie. Fate le vostre feste di compleanno, io non ci verrò. Da dove arrivavano? Soprattutto dove volevano andare dopo la morte? A tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici vorrei dire di stare tranquilli perché il paleolinguista è a casa mia. No, ha fatto quello che doveva fare, poi è venuto, cioè nel senso è stato... Ha attraversato il muro cementato, Non posso dire certe cose, comunque il fatto è questo, che sta bene, tutto a posto. Svelerai anche il mistero della luce viola. Cosa può essere la luce viola? Ma la luce viola a me fa pensare innanzitutto a una fonte energetica possibilmente radioattiva. Qualcosa c'è là sotto. È una storia singolare. Qualcosa c'è là sotto. Lo Stargate. Lo Stargate. Eccolo, ecco. Lo Stargate sarebbe... È rimasto sarebbe, attivo. Lo Stargate sarebbe una risposta molto interessante. Sì. Potrebbe davvero essere. Che conduce a... Dove vuoi tu? Nessuno ha avuto il coraggio di seguire il paleolinguista. E solo lui lo sa. Sì, a ma casa parla, mia parla conduce, ancora. È quello il punto. Ecco. Non volevo dirlo, ma. L'acqua lo sa. È chiaro una cosa, che quella dell'amore ha rilasciato della sostanza organica dal riso sulla parete, cosa che non è successa né su quella dell'odio, cazzo, è vero, su è quella vero, ragazzi, di c'è controllo. Più interazione è lì verissimo, guarda qua. Allora, qui c'è, qui, proprio, questa cosa qua. Allora, incredibile, anche, però è anche qua, del residuo, anche qua, anche qua. Residuo. L'odio non ha attivato nessuna interazione. Nessuna interazione. Magia. Magia. Cioè, l'amore ha praticamente unito i due elementi all'interno della bottiglia. È un allineamento prismatico quello che è successo adesso in diretta. Non radioascoltatrici e radioascoltatori, è incredibile. Non ci sono parole. Prismatico. cosa impariamo da tutto questo? Che bello, l'amore è una, è una legge universale che deve in qualche modo viaggiare tra noi e le molecole che sono al di là di noi, ma che sono anche noi. L'acqua è un fluido, è un flusso, è un qualcosa che deve, è un qualcosa che abbiamo in comune. Scusate, ma l'odio, sì, l'odio mi fa ridere. L'odio non è successo niente. Ecco, l'odio io, cioè, lo verrei in questo momento. E poi nulla. Nulla. Tutto questo odio e poi nulla. Se vogliamo far accadere qualcosa, allora, bravo maestro, proviamo amore. È questa la lezione che stiamo, è questa. Grande maestro. L'ho capita. Grazie maestro Ricky Giacco per la lezione. È questa, grazie, la nostra lezione. Lo grazie, è davvero. Grazie, è questa la nostra lezione. Parole illuminanti. L'acqua lo sa. Vi auguro cascate d'amore. Ho crocchiato malissimo. Va bene, ho recuperato però, dai. Un culo, un culo. Buonasera. Ebbene sì. Ebbene sì. Buonasera a voi. Ebbene sì. Di nuovo. Allora, però io mi sono dimenticato di un momento perché vedo un attimino distratto il dottor Bleso. Mi servirebbe la sua ugula per, no, un eccomi, secondo. Eccomi. Ah, certo. No, è immancabile questa volta. Per un piccolo sfizio personale. Non preoccuparti, non dire niente. Non dico niente. Ma gli abitanti di Saturno ce l'hanno l'ugola? Saturnia. Di Saturnia? Ce l'hanno. C'hanno le terme. C'hanno una cosa del genere. Vabbè, funziona uguale, funziona uguale. Va, ma va. Procediamo. Ma procediamo. Ma perché no? Un dottore. La gamista Ciripeo. Wow! Ho fatto anche un urlo alla Super Mario, non so se l'hai notato. Straordinario, era una ringrazio davvero moltissimo, davvero moltissimo, davvero moltissimo, davvero. Prego, moltissimo. Allora, l'anagrammista Ciripeo ci manda il suo anagramma, perché abbiamo ascoltato il suono del Big Bang. E allora ci anagramma Big Bang. Volete sapere come si anagramma Big Bang secondo l'anagrammista Ciripeo? Sì che lo volete sapere. Ho un po' paura. È difficile. Si anagramma in GG, virgola, nabbi. Direte voi. O almeno, forse no, qualcuno... No, no, forse capite, forse no. Io... Il nostro amico posso... Gigi Nabbi. Io no, sì. Posso fare una parafrasi, ma adesso cercherò un attimo di connettermi telepaticamente con l'ex papa per capire se posso farlo o meno. 10 secondi di connessione. Prego, 10 secondi. Siamo alla base. Sì, ok, ho ricevuto un via libera. Sì? E quindi GG sta per Good Game Nabbi. Wow. È vero, è vero. Io l'ho, anch'io mi sono connesso telepaticamente con l'anagrammista per domandare lumi e mi ha detto la stessa cosa. È vero, è vero, è vero. Però mi ha detto anche che sarebbe GG la parte polite, quella educata, giusto? Giusto. Però anche essendo la community dei videogiochi online notoriamente tossica, l'aggiunta di Nabbi, la quale è italianizzazione di noobs, è dopo, sei è d'accordo? Dopo, assolutamente. Noob, vuoi saperlo? Viene da newbie. Newbie. Lo sapevi questo? No. Me l'ha detto l'anagrammista, nemmeno io lo sapevo. Ma ormai non lo sanno più manco gli inglesi, d'altronde. Dice adesso, in questo momento, l'anagrammista, quindi tutto si tiene. Quindi l'anagramma di Big Bang è G-G-G-Nabbi. Ma quindi gli inglesi, diciamo, hanno un problema di memoria, ma adesso gliela rinfreschiamo noi. Sì, certo. Comunque quante competenze l'anagrammista sempre dimostra, maestro. Quante competenze. Ex papa, d'altronde. D'altronde. Allora, ma vi avevo promesso, caro Ricky Gianco, caro maestro Ottani, le domande degli ascoltatori quando abbiamo fatto l'esperimento sulla memoria dell'acqua. Allora, non me le sono riscritte, mi sono scritto soltanto la sintesi, porca miseria, però va bene, non c'è tempo. Dunque, la prima è questa. Ci hanno detto di doppiare gli elementi, cioè ci hanno detto che l'esperimento ancora dovrebbe conoscere una fase ulteriore. Dopo la prima volta in cui abbiamo messo due bottiglie, senza quella di controllo, e non erano bottiglie nuove, l'abbiamo rifatto poi con bottiglie nuove, riso nuovo e tutto quanto. E con l'elemento di controllo quella volta, giusto? Sì. Ci hanno detto dovremmo farlo doppio, cioè doppia bottiglia d'odio, doppia bottiglia d'amore, doppia bottiglia neutra, per vedere a quel punto davvero se l'esperimento funziona con una doppia. Che ne dite? Certo, anche triplo. Io vorrei solo l'acqua lo sa. Anche triplo, da... certo. Io vorrei solo fare un commento. Lezioni universali di esistenza a lezione da le radioascoltatrici e i radioascoltatori di lezioni universali di esistenza. Io non ho capito. Torna però. Tutto con sì. Lezioni. Sì, sì, sì, sì. Con l'acqua, quello in dubbio. Tutto ti schiena, tutto. Ma quindi sì, la risposta è sì, a voglia anche tre, sì. Che caso, certo, certo. Ma, sì. Certo. Non quando volete. Non ci sono dubbi. Forse la prossima è, volta. Quello è. Appena perché abbiamo voglia, tanto. Sì, ma io ne farei anche un altro. Sì. Che è legato a l'acqua congelata, però va cristallizzata l'acqua congelandola, facendogli ascoltare vibrazioni sonore e l'acqua registra e lì si vedrà. Quindi questa è una variazione sì, più complessa ovviamente da organizzare, anche perché servirebbe un abbattitore. Certo. Un abbattitore servirebbe? Sì, nel giro di qualche minuto un disco d'acqua viene fatto congelare dopo che è stato esposto a vibrazioni. Ma non potrebbe... E lei restituisce. Vibrazioni su quale range? Diciamo, amore, odio, neutro, musica di tipo. Bob Marley, certo. O gli fai sentire un pezzo dei Rage Against, non lo so, certo. Vedi tu. Certo. Quindi se ci procuriamo un microscopio e un freezer non basta comunque, giusto? Il freezer si potrebbe organizzare per tempo e cioè, discutere il risultato, sì. Io penso che sia il freezer, dai, assolutamente torniamo con i piedi per terra nelle nostre cucine. No, dai. Battitore chi non ce l'ha? Per l'appunto una cucina, forse, però non delle nostre. Un elettrodomestico no. Così diffuso cioè, nelle case. Va bene, azzardiamo quello invece, un passo in avanti, sì, d'altronde, sì, non attardiamoci oltre. Altro che triplicare l'esperimento, certo. Cioè, è quello lo step successivo. Molto bene. Che racconterà poi quello che rispecchia la nostra di acqua, sì, no? Sì. Allora, noi dobbiamo intanto decidere che cosa faremo sentire. È importante quella scelta. Ci procuriamo il materiale e ci aggiorniamo presto nelle prossime puntate, cari ascoltatori. E sia. Sì, sì, sì, sì. Avanti. Congelatevi. Un'altra suggestione che ci è arrivata dai nostri ascoltatori è stata questa. Ci hanno detto, potreste andare in giro a offendere acqua per il mondo per purificarla. E così risolvere anche problemi di approvvigionamento idrico in zone magari... Offenderla. Sì, perché l'esperimento nostro ha dimostrato che se noi dicevamo male parole all'acqua con scritto odio, sì. Quella non produceva alcuna reazione nel riso che vi era contenuto, a differenza di quanto avveniva se praticavamo l'amore verso la bottiglia con scritto amore. Quindi ci dicevano, in poche parole, essendo l'acqua dell'odio rimasta completamente limpida e quell'altra invece intorpidita dall'amido che si era mischiato all'acqua, andate in giro a offendere i bacini d'acqua, così la purificate, però non noi tre, se ci mettessimo per esempio come popolo, magari di un paese... Non sono d'accordo. Questa è una pratica... Questa no. È una cioè pratica. Non è mia comunque, io la sto perorando con una certa enfasi, ma non è una mia... Prego maestro. Sì. Dicevo, questa è una pratica assolutamente rischiosa, bisogna prendere le precauzioni del caso, andare in giro a offendere l'acqua. Ma cosa si intende? Acqua piovana, acqua dei fiumi, l'acqua stagnante... Io se ed ha ragione il maestro Ricky Gianco, gli esseri umani sono fatti al 90% di acqua, già lo faccio da un pezzo. Un attimo dopo. ce ne state un'altra. No, in effetti, torno un attimo indietro nell'offesa della... cioè non c'è interazione in quel caso, nostro caso, dove abbiamo scelto un riso che non scuoce, nemmeno se lo cuoci, con l'acqua. Sì. Non ci sono state interazioni, ma perché insomma, gli elementi non hanno era già un po' collaborato morto tra loro, ecco, non c'è stata una sinergia e quindi offendendo l'acqua emaniamo basse vibrazioni, l'acqua lo registra, o bevitelo un bicchiere d'acqua infamato. Gli untori dei pozzi hanno cominciato così, probabilmente così, hanno cominciato a insultare i pozzi e poi da lì la peste. Potrebbe essere la chiave di lettura facilissimo, corretta. Quindi no, non pratichiamo questa cosa. Amore, grazie. Noi pratichiamo amore per far succedere cose belle, questo è il nostro avviso. Sì. Ah, l'altro, ecco, ora mi viene in mente un altro audio inviato al nostro conduttore nel pomeriggio. Ah, bien sûr. Rush to the suite, ma raccontiamolo noi piuttosto invece. Parlava del fatto che le due parole che facevano risuonare massimamente l'acqua creavano i cristalli. Sì. E fossero grazie e amore. Parole d'amore, grazie. Amore, sì, esatto. Mi dispiace, ti prego per anche lo scusa, lo pono pono. Ora magari lo esattamente. Cioè proprio grazie e amore erano le due parole che cristallizzavano nel modo più geometrico. Okay. L'acqua si armonizza così tanto con quelle vibrazioni. Ma quella voce che ho ascoltato chi era? È un grandissimo personaggio, un dottore. Si chiama, mi sfugge il nome in questo momento. Mi sfugge il nome. Andate, cercate pure. No, si chiama Francesco. Non mi ricordo, ora guardo. E nulla, fa ricerca e è concentrato sull'acqua, sulle vibrazioni, allora, sul chakra, su tutto quello che è il nostro corpo eterico, spirituale, energetico, eccetera, eccetera. La terza suggestione del nostro ascoltatore invece è stata di un altro ascoltatore, è stata invece questa. Ci ha detto di dire cose neutre all'acqua neutra, invece di non dire niente. Dire cioè rifare neutre. L'esperimento tipo, che ne so, non ci sono più le mezze stagioni. Ah, certo. Insomma, anche cose così. Ma se usi proverbi sull'acqua non è che magari si risente. Sì, esatto. Cioè, secondo me devi dire cose veramente proprio... neutre però, non idriche. Sarebbe meglio, sì, se no ho il nome del dottore Francesco Oliviero. Scusa, Francesco Oliviero. Dopo ascoltiamo anche la voce. Grazie, maestro. Grande persona. Comunque, niente, non serve a un cazzo in realtà dire cose neutre all'acqua neutra. Cioè, è soltanto per sfizio che lo dovremmo semmai fare, obiettivamente. Sì, anche perché non sarebbe il famoso gruppo di controllo. Non mi sembra che sia questa la natura del gruppo di controllo. Sono d'accordo. Il gruppo di controllo non gli dici nulla. Sì, giusto. Interagiamo. Va bene, con amore. Bene. La cosa però più bella che ci è arrivata in seguito della scorsa puntata, quella sulla memoria dell'acqua, è stata un'importante epistola, una missiva, qualcosa di davvero prezioso che deve prendere il proprio tempo per essere letta e condivisa con voi ascoltatori. Quindi adesso voi dovete respirare profondamente. A proposito di dottori, io sto per rivolgermi al dottor Bleso e chiedergli di acchittare il tutto per farci sentire qualcosina. Molto bene, dottor Bleso, avanti tutta, un po' di musica live, sta per succedere qua per noi. Nel frammentre voi godete e subito dopo, appena distesi come sarete, ascoltate la lettera che ci è giunta. Vicky Gianco, maestro Ottani, Camaleon Temante, un culo, già che è qua, anche lei la invitiamo a partecipare con noi a tutto questo. È l'animo di Ciripeo. È l'animo dell'anagrammista Ciripeo, che però è, per l'appunto è il mittente. Attenzione. Ah. Allora, presenterò la versione di un mio grande successo, Unplugged. Successo circoscritto a questa radio. Una vita trascorsa, fatto tutto di corsa, cercando più tempo per me da trascorrere, coltivando più in fretta i miei hobby e magari una volta rispondere. Cercare un tesoro e trovare un amico con cui fare sport, per poi tornare a correre. Immaginare i 30 anni, da quando ne ho 5, prima una festa portavi da bere, ora porti bottiglie, prima parlavi per ore, ora cerchi una scusa per poi non esistere. Il bicchiere non conta, che sia metà pieno comunque finisce. Anima mia, magnifica svolta, cambierei idea ancora una volta. Antonia mia, nella tua rivolta ne parli per dirmi che non te ne importa. Sosia, non mi riesce mai bene qualcosa. Se non esce da prima poi buona, per questo si prova, se poi non funziona. Canto male, lo faccio per moda. Vesto bene, lo faccio per me. Ti assicuro che quello che sembra un cliché resta quello che è. Il tuo Dio mi odia, se non sbaglio gli devo qualcosa. Ma cosa vuoi farci? Ho passato una vita a strafarmi, non ricordo cosa. Anima mia, magnifica svolta, cambierei idea ancora una volta. Antonia mia, nella tua rivolta ne parli per dirmi che non te ne, che non te ne importa. Grazie. Una missiva. Era una pergamena. L'ha portata un ippogrifo. Il colore dell'inchiostro era un inquietante rosso brunito. Ricordava il sangue rappreso. L'ho aperta con cautela e adesso ve ne leggo il contenuto. Considerazioni laiche sull'esperimento documentato nella trasmissione radiofonica Lezioni Universali di Esistenza a proposito di Memoria dell'Acqua, appuntate e condivise da sua ex santità Giulio Ciripeo VII, a beneficio della giustissima verità, inoppugnabile e contro agli odori di apostasia spiranti infra gli ascoltatori di suddetto programma. Alla cortese ma dovuta attenzione degli spettabili autori del programma radiofonico Lezioni Universali di Esistenza, loro sedi, illustre Mario Ignoto, maestro Centottani, maestro Ricky Gianco, colleghi pontificatori non menzionabili. Il riferimento a quanto divulgato nell'arco delle tre puntate del vostro programma, intercorse fra l'avvio dell'esperimento e la sua conclusione temporanea, con relativi commenti, specialmente puntate 19 et seguenti, le osservazioni della nostra penna sarebbero innumerevoli et inaffidabili al pregio di pergamena et inchiostro. Per amore di brevità et economia et venire incontro alle vostre limitate possibilità di recepire grandi verità tutte assieme, in quanto non illuminati dalla beata luce della fede che abbiamo rappresentato et qui vi rappresentiamo, limiteremo le nostre osservazioni soltanto all'argomento in oggetto della presente missiva. Con ordine. Il lodevole vostro tentativo di indagare i misteri del nostro Signore, per quanto soffra dell'infantile ingenuità di ogni scientismo in quanto tale, ha elargito alle vostre persone una qualche importante risposta che non è stata, a nostro e dunque anche a vostro parere, debitamente commentata. I fondamenti epistemologici sono discutibili nella loro totalità, tuttavia non ci soffermeremo più del dovuto sulla vostra insopportabile mancanza di fede, ma piuttosto getteremo luce sul fatto che l'intero vostro esperimento si è basato su un assunto di fondo implicitamente accettato e periglioso di per sé. Il modus operandi scelto poggiava sul principio, presunto et erroneo, che amore et odio siano forze ambedue esistenti ed opposte nella meravigliosa danza del creato. Cioè, oltre che il falso, alquanto fuorviante et eretico. Nelle conclusioni tratte dalla vostra pur laicissima scienza nature, che volgarmente appellate fisica, avete trattato l'amore come energia, a ciò che, dalle risultanze empiriche del vostro esperimento, sembrerebbe emergere che il recipiente soggetto alle manifestazioni dirette di amore sia stato energizzato al punto tale da attivare reazioni più intense con l'elemento riso attraverso l'elemento acqua. Ora, se è verificato ciò, la vostra stessa fisica profana ha stabilito che a un'energia non si contrappone una qualche antienergia o energia negativa, se non come artificio matematico, come voi errando affermate, e lo fate con l'aggravante di farlo in via del tutto implicita e passandolo sotto silenzio. Ammettendo e concedendo che la vostra fisica profana possa effettivamente dire qualcosa di vero sull'opera di nostro Signore, quanto vi diciamo è facilmente riscontrabile con un piccolo espediente. Seguiteci in un breve esempio. Vi sarà ben noto che il freddo del linguaggio comune et barbaro, infatti, non esiste, ma che così si è soliti chiamare, per ignoranza et pigrizia, la semplice assenza di calore. Allo stesso modo, non esiste nessuna tenebra, né oscurità, né buio. Così gli infedeli appellano la semplice assenza di luce. Abbiamo ben udito tra le righe il malcelato sarcasmo col quale accoglievate, ascoltando l'esposizione di quel giovanotto, tale Merry Cristo Jesus, l'introduzione da parte di Guglielmo Reich dell'orgone negativo nella sua teoria. In quell'occasione deve esservi risuonata posticcia ed inutile, se non invalidante, l'entrata in gioco di un ulteriore fattore tutto da dimostrare. Se a Guglielmo Reich, noto apostata, avete riservato tale trattamento, allora, pertanto, siate equi. E per mettervi in condizione di far ciò, rincattucciando al momento una provvida umiltà, vi consigliamo di avvalervi del rasoio di un altro Guglielmo, lui sì, buon cristiano, che non per celia né per caso fu fregiato del titolo di Doctor Invincibilis. Or dunque, nel tentare di spiegare un fenomeno, guardatevi dall'introdurre entità o forze non strettamente necessarie alla comprensione dello stesso. Perseguite la via della semplicità ed esauritela primamente, se non volete cadere in errore di metodo. Non postulate l'esistenza di enti come freddo, tenebra, odio o altre deliranti amenità senza aver almeno tentato di farne a meno. Al fine di descrivere il vostro esperimento e di ritrarne le vostre conclusioni et interpretazioni, il consiglio, a noi non richiesto ma da noi dovuto, è quello di trattare le offese, il dileggio, il disprezzo, con la vostra parola l'odio, agiti contro lo sventurato recipiente vitreo, non come l'infusione di una nuova forza chiamata odio, ma come la sottrazione attiva dell'unica vera energia e forza di nostro Signore, che ha per nome amore. Non esiste l'oscurità, esiste la mancanza di luce. Non esiste il freddo, esiste la mancanza di calore. Non esiste la stanchezza, esiste la mancanza di energia. Non esiste l'odio, esiste la mancanza di amore. Non esiste la stupidità, esiste la mancanza di intelletto. non esiste la scienza, esiste la mancanza di fede. Ed è certo, dunque, che la lezione che ne ricavate è che l'amore fa succedere le cose. Sbagliate, tuttavia, l'interpretazione generale. Ci tratterremo dall'indicare ulteriormente gli errori del vostro metodo, certi che saprete in autonomia trarne le rette considerazioni e le prassi operative conseguenti. Appresso alla conclusione, allora, invitiamo comunque le signorie vostre a proseguire sulla strada intrapresa, per quanto essa vi allontani dalla vera verità che sola passa per mezzo della fede e dritta raggiunge la beatitudine del Regno dei Cieli, poiché negli infiniti sentieri et misteriosi di Nostro Signore non è detto che una strada più lunga et perigliosa non conduca infine anch'essa tra le amorevoli braccia di colui che tutto può. La via semplice è a voi manifesta, pentirsi e accettare la fede. Poiché tuttavia la rifuggite, cercate allora, cercate, tra le piaghe purulente della vostra scienza imperfetta che solo può tenere alla suprema teologia, tendere alla suprema teologia. Il vostro filosofare non è che un goffo balbettare la parola salvifica, eppure lo preferiamo comunque al silenzio, silenzio che, per inciso, non esiste, è solo la mancanza di suono. Per ridurre il clamore, non s'aggiunge silenzio, si sottrae rumore. In fede, sua ex santità, Iulius Ciripeus Septimus, 12 febbraius, anno domini 45724, Stargate di Pozzo Trigiano, Bari, 70014. PS, ci verrà perdonata la verbosità delle nostre considerazioni, ma tale dispositivo è necessario affinché tale missiva non sia passabile di lettura durante le vostre trasmissioni eretiche, cosa che non abbiamo rispettato. Sì, ma chiudiamo con un grazie. Una missiva dall'ex papa, vogliamo cambiare base? È stata un'esperienza bellissima. Quasi mistica. Sono tornato indietro di 4, 5, 6, 7, 8, 9 secoli. Ma più che grazie direi comunque, grazie. Sì, grazie. dopo aver imposto la mia attenzione, dopo le 2, 3, 4 mila imposizioni, la mia attenzione è scappata altrove. Basta imporre. Prego, prego. No, ribalta tutto questa missiva. Ma francamente sì, ribalta un po' tutto. No, non ribalta niente. Niente. No. I maestri dicono no. Un secco no. Vogliamo tornare con i piedi per terra. Mante. Cioè, il succo è stata fantastica, grazie. È un'assenza di... No, non ci sono assenze, no, non ci sono vuoti da riempire o perché non c'è una cosa, allora... L'odio è un'assenza d'amore, noi non abbiamo semplicemente, non abbiamo praticato amore verso... No, laddove nella missiva ci sono imposizioni e... certo, è un ex papa, ecco, che cazzo? Lasciamolo lì dov'è, ringraziamolo e andiamo avanti per la nostra strada, ragazzi. Maestro Di Chicianco, cristallizziamoci. Ci stiamo un po' fermando alla forma, ma io accetto comunque okay. Una non accettazione di tale forma, perché comunque tu sei un uomo di libertà. Okay, sì, è vero. E quindi sì, è giusto, prevale quello. In realtà non ci spinge ad andare oltre, quindi quello che vedo io è uno stop secco che vorrei lasciare alle spalle. Non ti senti pungolato a un'ulteriorità di qualche tipo da qua? Sì, in effetti. Forse davvero molto, no. In realtà, perché tocca, come hai detto, la libertà di pensiero, perché imporre in quel modo lì, come stava fatto per tutti noi millenni, no? Qui siamo nella culla di tale mentalità e ci blocca a livello mentale, di pensiero, laddove non c'è luce, no, non c'è il buio. chiamiamolo come cazzo ci pare, ma là il buio c'è perché non c'è la luce. E poi quel gioco di parole è fuorviante. Gli ex papi... Lo so, ma hanno finito il loro ciclo. È stato bello riaverlo con noi, una parentesi molto interessante. Siamo così importanti da suscitare pizzicore al... Noi non, nessun rispetto per il cazzo di ex papa, grande Ricianco, sei un vero anarchico. No, in realtà... Ma certo, in realtà, certo. Mettiamoci... Io non mi voglio mettere sotto. No, sì, lui si pone minacciosa. Al di sopra. Sì, porsi al di sopra questo... non va bene. Certo. Ognuno fa le sue di esperienze, non so. Anche un culo, un moto di libertà, sento che sì, lo abita. Sì, esattamente, infatti io volevo dare un po' voce anche in questo senso a la spaccatura che si apre tra la forma e il contenuto, però, in tutto ciò, perché c'è una forma minacciosa che ho sentito da parte del nostro Ciripeus Vaticanensis, però sul contenuto, sull'aspetto che, su cui chiama attenzione, effettivamente chi sono io come camaleonte mante che mandò i camaleonti molto tempo fa a mandare un messaggio importantissimo, purtroppo dimenticato oggigiorno dagli esseri umani, però voglio dire, io che ho mandato i camaleonti, come faccio a non riconoscere la presenza dei tardigradi, forse grandi principi attivi viventi nell'acqua, fortissime, che in qualche modo fortissime. Probabilmente potrebbero sentire l'amore ben più dei contenitori vitrei che sono stati citati, e quindi potrebbero cambiare molto la situazione nel senso di un interlocutore evidentemente invisibile tra noi e il nostro oggetto di osservazione, più che fisica, più che fisica, quindi biologia, criptozoologia per essere ovviamente più preciso. Sono gli unici esseri a, se non erro, a esistere al di fuori dell'atmosfera, cioè possono sì. navigare nello spazio, loro sì, tranquilli. Sì. Loro sono i cugini si dei fanno camaleonti, portare, vero? Nella mitologia bantu. Quindi non hanno bisogno di un pianeta. No. Apoli. Apolidi. Apolidi. Sì. Apolidi. Stanno bene ovunque li metti. Sì, sì, tipo un amico mio. Comunque che personaggio interessante che è il camaleonte mante. A me piace così, con questi flash di esistenza. Va bene, allora, quindi alla faccia dell'anagrammista noi cambiamo base e mettiamo quella che piace al maestro Ricianco. Yeah. Non c'è convinto anagrammista, non c'è convinto. Quale dice che forse non voleva. Non voleva, forse. Forse. Ora mi connetto, lo capiamo. Anche perché lui non vuole, impone. Impone. Ecco, appunto. Mettiamoci sullo stesso piano. Oddio! Allora, non so se dirlo o non dirlo. Dillo, dillo. Ha varcato la porta una persona che non pensavo che sarebbe comparsa, e invece lo ha fatto. Si è unito a noi a sorpresa. È con noi. Ma quale porta? L'ipnotista Filippetti. Urrà, buonasera ipnotista. Buonasera ipnotista. Buonasera. Buonasera ipnotista, buonasera. Quale porta? È silenzioso l'ipnotista. La porta della percezione. Guarda che aplomb e savoir faire l'ipnotista. Chiaro. È un ipnotista. Va bene, molto bene, dai, avanti tutta. È questo il momento giusto per fare quello che dobbiamo fare, ovvero mettere una canzone e andare a conclusione. Perché ci serve una canzone per fare poi l'epitomo, il riassuntino di questa puntata, e rimandarci a fra due settimane. Non le abbiamo svelato l'esperimento dell'acqua, non c'è tempo. Non c'è stato tempo. Lo lasciamo lì. Due settimane. Lo lasciamo lì. Per adesso lo lasciamo lì. Perché comunque, allora, io la prossima volta voglio sapere di un culo. vediamo se riusciamo a far parlare l'enigmista Filippetti. Concludiamo questa puntata lasciandoci con una canzone. È una domanda. E una domanda per il nostro ex papa. Ma quindi il presente è assenza di tempo? Sì. Wow. Mi diamo qualche minuto per pensarci anche adesso, però. Grande maestro. Bellissimo. Va bene, fra 2 settimane con Lezioni Universali di Esistenza. Viva Radio Wombat. Ciao non a tutti. Perdetevi nell'universo. Viva. Perdetevi dentro voi stessi. Camaleonte Mante, ti aspettiamo. Grazie, maestri. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ma c'è anche... Eccolo qua. Ciao, dottor Bleso. Buonasera. Buonasera a tutti. Alla prossima. Sei con noi la prossima, eh? Certo. Evviva. Certo, sempre con voi. Roger, we got it, we've lost it. Who's gonna be the cages? Bravo Tango, Bravo Tango.